spiaggia apposta. L'essere vuole la parte migliore, uccidere l'ego, pareti e via di qui. Rimasto da solo, non penso al domani, rimango perduto in fondo alla via. Baglioni di luce, la forza che avanza, mi piace pensare al fido singolare. L'essere muore, la parte migliore, uccide dell'ego, pareti e via di qui. Magari potessi dividere l'aria, l'agguato che teso arranca e non cedo. Magari potessi dividere l'aria, l'agguato che teso arranca e non cedo. Rimasto da solo, non penso a domani, rimango perduto in fondo alla via. Baglioni di luce, la forza che avanza, mi piace pensare al fido singolare, al fido singolare, al fido singolare.